Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È lei che fa rabbia, mi mollano a cornare. No, ministro. Anche qua, ministro, grazie. Non rovinarmi un dito. Ce l'aveva con una mucca il ministro del lavoro oggi, il ministro Poletti, che era al lavoro con una mucca per l'appunto in piazza. Sapete che c'erano molte manifestazioni di allevatori, manifestazioni di protesta per la grave crisi del settore e anche per manifestare contro l'abolizione tra poco delle quote latte in Europa. Vi ricordate, prima si manifestava contro le quote latte, adesso invece si era capito che potevano calmierare un po' il mercato, invece il ministro Poletti era lì che cercava, insomma, di avere a che fare con una mucca ma senza molta disinvoltura, come avete sentito. Parleremo di molti argomenti come sempre, siamo a fine settimana, vi riepilogherò velocemente dopo il primo aggiornamento per chi viaggia la politica di questi giorni, appena prima e subito dopo l'elezione di Mattarella, con tutto lo sconquasso che è avvenuto. Fra le altre cose sapete che c'è stata anche, l'avevo annunciata ieri perché era un'agenzia che è avvenuta praticamente pubblicata durante effetto notte, una piccola diaspora, diciamo così, di scelta civica dentro il PD. Oggi è avvenuta, definitivamente sono in 8 i parlamentari che da scelta civica sono passati nel PD. Vi chiedo di scrivere i vostri commenti su questa scelta, su questo passaggio, sempre con i due canali per la vostra comunicazione, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che potete utilizzare 24 su 24, oppure in diretta. Oltre alla pagina di Effetto Notte c'è anche il numero per gli SMS, che è 349-238-6666. Che ne pensate? È l'ulteriore passaggio di partita di scacchi di Renzi, quindi, che continua con la sua conquista, oppure lo vedete in modo critico? Vedo già diversi messaggi su Facebook che, insomma, non apprezzano questo trasferimento di scelta civica, di parte di scelta civica al PD. Insomma, questo sarà sicuramente un argomento centrale di questa sera, di questa puntata. Parleremo naturalmente anche di maltempo, delle previsioni, dell'Ucraina, di vari altri temi e, tanto per iniziare, come sempre, un riassunto della giornata. La crisi ucraina, vertice tra Putin, Merkel e Hollande sul piano di pace. ISIS nei bombardamenti attuati dalla Giordania come vendetta per il pilota arso vivo, è morta una cooperante americana ostaggio degli integralisti, ma Washington non conferma. La politica italiana, Renzi avverte Forza Italia, i numeri li abbiamo anche senza di voi, 8 parlamentari di scelta civica passano nel PD. OGM, il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell'imprenditore Fidenato, in Italia resta dunque il divieto. Omicidio Pasolini, chiesta l'archiviazione per la nuova indagine. Per la procura non è possibile dare nome ai codici genetici rinvenuti sugli abiti dell'intellettuale ucciso nel 1975. Meteo migliora al nord, piogge al sud, disagi per strade e ferrovie. Bollette nel 2015 scendono, risparmi sino a 2,7 miliardi. Arte è di Gauguin, il quadro più caro di sempre, venduto per 300 milioni di dollari da una fondazione svizzera al Qatar. Partiamo quindi dalla grave crisi ucraina, dove si rischia una catastrofe umanitaria. In 10 mesi di guerra sono morte più di 5.000 persone, moltissime tra i civili. Oggi si è tenuto un vertice a Mosca tra Putin, la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande per trovare una soluzione diplomatica, partendo da la richiesta di un immediato cessate il fuoco. Quanto può essere vicina una possibile soluzione di pace lo capiremo più tardi qui a Effetto Notte con un ospite, un esperto di quell'area. Ancora sulle notizie dall'estero, perché sale ulteriormente la tensione tra gli integralisti islamici dell'ISIS e la Giordania. Oggi l'ISIS ha diffuso la notizia di una donna americana vittima dei bombardamenti giordani al confine con l'Iraq. Subito è arrivata la smentita di Amman, che parla di una trovata che è tesa che ha a che fare con le pubbliche relazioni, insomma, per creare ulteriore scompiglio, mentre il Pentagono dice che al momento non ci sono delle prove. Su questa escalation sentiamo il commento di Alberto Negri. Re Abdallah di Giordania non è mai stato popolare, è troppo occidentalizzato, troppo poco arabo, e neppure sua moglie Rania, la bella palestinese, suscitava le simpatie dell'opinione pubblica più tradizionalista. Ma ora la tragedia del pilota Muaz Kazazbeh, arso vivo dal califfato, sta mobilitando il paese, che marcia unito nelle strade della capitale Amman, mentre la corona sciita gode di una nuova popolarità. La Giordania impicca i jihadisti, bombarda le postazioni del califfato e rafforza le difese ai confini, come se stesse per muovere guerra allo Stato islamico. Qual è davvero la situazione? Abdullah ha ottenuto da Obama $1 miliardo di aiuti e altri sostegni finanziari arrivano dall'Arabia Saudita, perché il regno è uno stato cuscinetto tra l'Iraq, cioè tra l'ISIL, e la monarchia saudita. ma i sunniti vogliono davvero eliminare i jihadisti, visto che il loro principale obiettivo finora era far fuori Assad da Damasco? Il motivo di questa mobilitazione è che in Mesopotamia crollano interi stati, come la Siria e l'Iraq, e si profila una spartizione in zone di influenza. Però sul campo a combattere i barbari integralisti sono i curdi, l'esercito iracheno, quello siriano di Assad e le milizie sciite Hezbollah. In Medio Oriente non c'è soltanto una guerra, ma molte guerre insieme, e quella più grande è proprio dentro l'Islam. E siamo alla politica italiana. Continua l'onda d'urto nei partiti seguita al voto per Mattarella. Matteo Renzi è sicuro, almeno vuole rassicurare. Dopo lo strappo di Forza Italia, il premier garantisce di avere i numeri, anche se spera che sulle riforme prevalga il buon senso. Se Forza Italia vuole rimangiarsi il patto, dice Renzi, buon appetito, ho sempre detto che voglio fare accordi con tutti e che non ci facciamo ricattare da nessuno. Tutto ciò avviene nel giorno in cui 8 tra senatori e deputati lasciano Scelta Civica per approdare nel PD, tra i quali il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e il vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Una mossa che arriva poco prima del congresso e che scatena le ire dell'ex compagno di partito Enrico Zanetti. Così Zanetti ad effetto giorno. Le scelte individuali sono legittime, in politica si è visto sempre di tutto. È indubbio comunque che c'è poca disponibilità, ripeto, ad accettare le logiche di una comunità di persone. Fino a che decido io va bene, quando decidono gli altri non va più bene, un piccolo chiarimento ci deve essere. In serata anche Benedetto Della Vedova dice addio a Scelta Civica, ma non aderisce al Partito Democratico pur continuando a sostenere la maggioranza, mentre Andrea Mazziotti, capogruppo di Scelta Civica alla Camera, conferma il congresso per domenica. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di bollette. Ci sono delle buone notizie per famiglie e imprese italiane che spenderanno quest'anno quasi 3 miliardi di euro in meno per l'energia elettrica. Il dossier Grecia arriva sul tavolo dell'Eurogruppo. La riunione straordinaria dei ministri finanziari si terrà infatti l'11 febbraio. Il 12 sempre a Bruxelles si vedranno quindi i capi di Stato e di Governo. Si parlerà di Atene ma anche delle relazioni con la Russia. A condizionare i tempi di intervento sui destini economici del paese guidato dal neo premier Tsipras è intanto la data del 28 febbraio, entro la quale scade l'attuale programma di assistenza finanziaria. Per la Grecia si sta cercando una soluzione condivisa, commenta il ministro dell'economia Padoan. Si tratta di trovare una soluzione che permetta di rimettere la Grecia su un sentiero di crescita sostenibile e sia compatibile con gli obblighi e gli impegni finanziari. Le regole vanno rispettate, aggiunge Padoan, che promuove così l'operato della BCE. L'intervento della BCE è opportuno e necessario perché la BCE, come le altre istituzioni europee, devono lavorare all'interno di un quadro di regole che sono condivise e devono essere applicate. Più in generale, per le riforme è inutile la linea dura, dice quindi Padoan. Serve consapevolezza interna, non pressione esterna. Infine il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che conferma no ad un prestito ponte alla Grecia durante la rinegoziazione dei termini per un nuovo accordo finanziario con l'Unione Europea. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente qui si parlava di Grecia, di Unione Europea, mentre per le bollette avete sentito risparmi per il 2015 fino a 2,7 miliardi, è un effetto combinato tra il calo del petrolio e dei provvedimenti del governo. Ora invece dalle bollette al latte, prima si manifestava contro le quote latte, oggi manifestazione in 13 piazze italiane degli allevatori contro la fine delle quote latte. 36 centesimi pagati all'allevatore, fino a 1,70 euro il costo per il consumatore. Succede al latte. Il 1 aprile si concluderà il regime delle quote, il mercato tornerà libero e gli allevatori italiani temono la decimazione. La crisi prima e ora la discesa dei prezzi alla stalla ha cancellato oltre 30.000 posti di lavoro, in un settore in cui sono impiegate 180.000 persone. Nell'ultimo semestre abbiamo visto abbassarsi il prezzo del latte da 44 centesimi e mezzo a 36 centesimi, quando i nostri prezzi di produzione hanno continuato ad aumentare. Lei è Vilma Pirola, allevatrice di Pavia. Con 36 centesimi, dice il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, non si coprono nemmeno i costi per il mangime degli animali. Oggi noi importiamo oltre il 40% del nostro latte e il consumatore non lo sa, perché non ci obbligo in etichetta né sul latte a lunga conservazione e né sui formaggi e sugli altri trasformati del latte, ad eccezione dei prodotti a denominazione d'origine. Dunque l'origine certa in etichetta è il punto di partenza necessario, e poi la collaborazione tra i soggetti interessati, sottolinea il ministro per le politiche agricole Martina. La chiave fondamentale è l'interprofessione, dove tutti i soggetti della filiera facciano insieme lo stesso mestiere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora UGM, è stato confermato il divieto in Italia. La conferma arriva dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell'imprenditore agricolo Giorgio Fidenato, che aveva impugnato il decreto del governo che vieta la coltura di mais geneticamente modificato in Italia. Sentiamo Fidenato al microfono di Anna Migliorati. Io la speranza è sempre l'ultima a morire, però me l'aspettavo. Cioè, io non può accadere domani che in Italia non si può seminare e in Spagna sì. Non esiste. Quindi, ergo, porteremo la Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia europea per vedere se questa direttiva che stanno preparando, che ancora non si sa, rispetta i trattati. Io non ho ancora avuto modo di leggere la sentenza, no? Per me è una questione ideologica. E la cronaca adesso, l'ennesimo omicidio di genere, femminicidio a Lodi, vicino Milano. Un uomo di 45 anni, romeno, disoccupato da un mese, ha rinchiuso la moglie nel bagno, l'ha massacrata a coltellate, poi si è barricato all'interno e si è suicidato, pare tagliandosi la gola, il tutto a pochi metri dalla figlia 12enne che dormiva nella camera con la mamma. La ragazzina è stata svegliata dalle grida di aiuto provenienti dalla stanza vicina. E dopo gli annunci e gli slittamenti, ora c'è una data. Ad aprile Roma avrà il suo primo quartiere a luci rosse. Andiamo sul maltempo, con una giornata difficile quella di oggi per i disagi causati dalle forti nevicate sul centro-nord, colpita in particolare l'Emilia-Romagna. Code, strade e autostrade chiuse, ritardi e cancellazioni su molte tratte ferroviarie, lezioni sospese in decine di istituti in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Sardegna. Mezza Italia sotto la neve, come previsto, ed è subito caos trasporti. Con il nodo ferroviario di Bologna in tilt, i tir bloccati per 8 ore sull'autosole. E gli autisti soccorsi con acqua e biscotti sulla A14. La situazione più critica in Emilia-Romagna, con ripercussioni su tutte le regioni confinanti. 60 cm di neve caduti a Parma, 40 a Bologna. 1 metro sul valico appenninico della A1, dove il transito dei mezzi pesanti bloccato tra Firenze e Sasso Marconi è ripreso solo nel pomeriggio. Molti disagi anche sulla rete elettrica, con numerosi blackout, decine di migliaia le utenze interrotte sull'Appennino, 100.000 nel Bresciano. Sempre in provincia di Brescia, 3 anziani sono morti, colpiti da infarto mentre spalavano la neve flagellata dalle burrasche e dalle mareggiate la costa adriatica. La circolazione è tornata sotto controllo, rende noto Trenitalia. In merito alla chiusura di alcuni tratti autostradali, il ministro Lupi, intanto, ha chiesto chiarimenti alla struttura di vigilanza sulle concessionarie. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi vi ricordo che verso la fine della puntata di questa sera parleremo anche delle previsioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Per passare alle altre notizie, l'omicidio di Pasolini sugli abiti che Pierpaolo Pasolini, ucciso il 2 novembre del 1975 all'idroscalo di Ostia, indossava la notte della tragedia, sono stati individuati almeno 5 codici genetici sui suoi abiti, a cui però non è stato possibile dare un nome, e per questo la Procura di Roma ha chiesto di archiviare la nuova indagine che era stata avviata sui fatti di 39 anni fa. Per chiudere, una notizia che viene da l'arte, è di Paul Gauguin il quadro più caro di sempre, venduto per 300 milioni di dollari da una fondazione svizzera al Qatar. È un dipinto che raffigura due donne tahitiane, e lo scoop è del New York Times. Bene, adesso prima di aggiornare chi sta viaggiando, do spazio ad alcuni vostri messaggi. Vedo molto critici per lo più sul passaggio di alcuni parlamentari di Scelta Civica al PD. Ugo dice: come sempre tutti in soccorso del vincitore. Qualcuno si scompiscia dal ridere, dice Clotilde: cara Roberta, che squallore questo girovagare da un partitino a un partitone, tenendo ben saldi i ministeri. Qual è la differenza tra il pregiudicato e lo spregiudicato? Ringrazio Luca per il suo messaggio. Un altro messaggio che non leggo. Poi qualcuno dice: i soliti mercenari. Insomma, vari messaggi un po' di questo tenore. Adelchi, Forlì: chi viene votato in un partito dovrebbe rispettare le promesse fatte al proprio elettorato, altrimenti dimettersi, non tradire. Per ora sono un po' tutti su questa linea, al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco avremo un parlamentare, ex parlamentare a questo punto di Scelta Civica, adesso nel PD, e commenteremo la politica anche insieme a un editorialista. Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, altri messaggi vostri anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Giuseppe dice: speriamo che il carro regga tutto questo peso, dice, con quelli che raggiungono le file del PD. Poi Marco dice: fantastico esempio di coerenza e di attaccamento al partito, e molti altri così. Vi vedo molto, molto critici e molto critiche questa sera. Vi ricordo però intanto quali sono le notizie principali di oggi. Renzi rafforza il PD, abbiamo i numeri, dice, anche senza Forza Italia spero vinca il buonsenso. Intanto da Scelta Civica in otto lasciano il partito e vanno nel PD. Caos che continua in Forza Italia intanto. Ucraina, vertice tra Putin, Merkel e Hollande sul piano di pace. E poi ISIS, una ragazza americana, ostaggio degli integralisti, sarebbe stata uccisa in un raid aereo giordano, però il Pentagono per ora non conferma. Il nodo Grecia, ci sarà l'Eurogruppo l'11 a Berlino per capire che cosa fare. Per la Grecia, meteo migliore a nord, pioggia a sud, disagi, strade e ferrovie, ne abbiamo parlato. Bollette 2015 in discesa, risparmi fino a 2,7 miliardi, un effetto combinato tra il calo del petrolio e i provvedimenti del governo. E poi resta il divieto del mais OGM in Italia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un imprenditore friulano. E allora proseguiamo una nuova puntata qui Effetto Notte dei suoi movimenti politici, poco prima e subito dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. Abbiamo assistito in questi giorni, ne abbiamo parlato, al travaglio, alla crisi del centrodestra che si è sentito marginalizzato e scavalcato dall'imposizione del nome di Mattarella da parte di Matteo Renzi. Abbiamo avuto in questi giorni Gaetano Quagliariello del nuovo centrodestra che parlava del fatto di trovarsi davanti a un bivio, e che però insomma sembra che sia stato ricucito ieri con l'incontro tra Renzi e Alfano. Abbiamo avuto anche Fitto, dissidente numero uno di Forza Italia, che diceva in questi giorni che vuole appunto riconferma, vuole le primarie all'interno del partito, che vuole azzerare le cariche. Oggi ha lanciato una sua convention per il 21 febbraio dicendo: non siamo dei rottamatori ma siamo dei costruttori per tutto il centrodestra. Allora saluto intanto l'onorevole Ilaria Borletti Buitoni, buonasera. Buonasera. Intanto la ringrazio di essere qui perché, diciamo, intanto anche sottosegretario dei beni culturali, perché piovono critiche da varie parti, quindi è stata coraggiosa, questo lo riconosco. Magari altri avrebbero declinato l'invito questa sera. E mi dice perché di questo passaggio di otto di voi al PD? Se uno prende l'agenda di Scelta Civica, quando Scelta Civica è nata, ed è quello poi per cui io sono entrato in politica, oggi quell'agenda è stata completamente assorbita dal Partito Democratico. Non c'è dubbio che il Partito Democratico di oggi non è il Partito Democratico di 3 anni fa. Nel frattempo cosa è successo a Scelta Civica? Sono successe, lo sappiamo, scissioni, l'abbandono dei fondatori, questo non va dimenticato. E io sono proprio tra quelli che ha cercato fino all'ultimo di mantenere un minimo di unità all'interno di questo partito. E purtroppo non ci siamo riusciti, perché si va verso un congresso che si sapeva sarebbe stato ulteriormente divisivo, e qui siamo ormai alla scissione dell'atomo, e in cui le posizioni di quell'agenda ormai sono completamente trascurate. Ora, il passaggio al gruppo, nel mio caso, da indipendente dei parlamentari democratici, è un passaggio all'interno di un quadro di temi e di proposte che è esattamente quello per cui io avevo deciso di entrare in politica. Vorrei anche aggiungere una cosa. Io sono sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e lì c'è il ministro Franceschini, che ha fatto una riforma assolutamente radicale del sistema dei beni culturali, che io adesso non voglio attribuirmene nessun merito perché il merito è suo, però i temi di quella riforma, dopo l'esperienza del governo Letta, io li avevo scritti in un libretto, in un instant book, dicendo: mi piacerebbe che nei beni culturali succedesse questo. Quindi non ritengo di aver fatto, in rapporto alle mie idee, in rapporto alle mie convinzioni, nessun salto in ambiti che non mi competono. Certo, mi sarebbe piaciuto che tutto questo fosse Scelta Civica, ma purtroppo Scelta Civica non lo è più. Onorevole, a parte le critiche pesanti del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro che dice da scelta civica diventa sciolta cinica, qualcuno invece dice sciolta civica, insomma, e poi però dal vostro stesso partito lei sa che il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti è molto critico nei vostri confronti, nonché deputato di scelta civica. Ieri commentava, appena uscita la notizia di questo passaggio che sarebbe stato oggi, domenica dice faremo il nostro congresso e se magari Renzi fa un salto riesce pure a spiegarci di quali approdi comuni parla e scusarsi con i nostri parlamentari. Trovarsi dentro un PD guidato in questo modo deve essere difficile entrarci su chiamata demenziale. E oggi ha detto che Renzi ha lanciato un'OPA ostile nei confronti di scelta civica. Lei come risponde? Ma intanto sa, dare dei demenziali a dei colleghi, qualunque sia il loro partito, io non lo trovo mai il ricorso a una dialettica produttiva. Su questo congresso, già ormai da 20 giorni, sia io che un gruppo di colleghi, in particolare dei senatori, avevamo espresso enormi perplessità, dicendo che questo congresso avrebbe definitivamente spaccato scelta civica, che era molto meglio lavorare seriamente con i nostri gruppi parlamentari, cercare di aggregare anche altri, perché abbiamo appunto subito numerose scissioni, ormai i nostri numeri sono molto esigui, e poi eventualmente una volta rafforzata l'attività parlamentare andare ad un congresso. Purtroppo questo nostro appello è stato completamente inascoltato, per cui questo ha portato evidentemente alcuni senatori, ed è comprensibile anche perché per alcuni di loro è stato in un certo senso un ritorno verso un partito che avevano lasciato per mancanza di riformismo. Ichino, per esempio. Per esempio Chino, no. Per esempio Lanzillotta, cioè non dimentichiamo che questi colleghi sono usciti all'epoca dal PD perché non vedevano abbastanza riformismo, cosa che evidentemente oggi presenta un quadro completamente cambiato, quindi sono tornati all'interno di questo partito. Quindi la spaccatura che si stava verificando era tra una certa visione del riformismo e quello che invece uscirà da questo congresso, che non ha nulla a che fare con questa visione. Quindi io non credo affatto che quello che è avvenuto, che purtroppo nasce da un lungo percorso di mancanza di leadership, sicuramente l'andata via di Monti per noi è stata un colpo mortale, perché ci identificavamo con una persona che forse non piace più al 90% degli italiani, ma che al momento del voto era stata scelta dal 10%. Noi all'Europea abbiamo preso lo 0,3. Ora, qualche riflessione sulla nostra irrilevanza invece di andare a un congresso, forse era importante farla, e questo nostro appello non è stato ascoltato. Quindi questo ha provocato uno smottamento che era prevedibile, che però, e questo io ci tengo molto a sottolinearlo, anche perché la mia permanenza in politica non credo, vista l'età oggi dei politici, sarà lunga e soprattutto legata a un ambito preciso, che è quello dei beni culturali, non è entrando in una forza che esprime riforme che io non condivido, ma è un impianto riformista che, ripeto, è esattamente quello che Scelta Civica aveva quando è stata costituita. Allora, quando nelle elezioni del 2013 eravate in 55 tra deputati e senatori, no, di Scelta Civica, adesso mi pare in 24 con questo vostro abbandono di 8. Lei ci aveva proprio creduto in Scelta Civica, perché molti le ricordano che aveva fatto anche una donazione generosa, più di 700.000 euro per Scelta Civica. Ma io non avevo, mi perdoni se la correggo, io non avevo fatto una donazione, perché è diverso. Quando io dovevo essere capolista di una lista abbastanza sconosciuta, avevo a Milano due diciamo concorrenti, uno era il PD con Bersani capolista e uno era il PDL con Lupi capolista, e noi eravamo una lista nuova senza fondi elettorali, perché guardi che sui fondi elettorali c'è da parte di tutti i partiti più bipartisan del silenzio, perché tutti i partiti spendono milioni di euro in campagne elettorali, ma naturalmente nessuno dice poi come li spende, perlomeno fino adesso, quando c'erano ancora i fondi pubblici. Quindi non avevamo nessun tipo di armi. Ora, io non so se c'è qualcuno che ancora pensa che la politica si faccia solo coi sogni. Non credo che sia così. E allora, se abbiamo ottenuto a Milano un risultato importante, è stato perché io ho fatto una campagna elettorale molto seria, molto approfondita e molto anche intensa sul territorio. Monti non ha commentato questo vostro passaggio? Sì, l'ha commentato stasera, e l'ha commentato, come dire, esprimendo parole di rispetto, anche perché conosce ciascuno di noi, quindi sa benissimo che non siamo dei rincorritori di futuri posti in liste elettorali e quindi conosce anche la storia di ciascuno di noi, per cui l'ha commentato con rispetto. E peraltro ricordo che Monti non rinnova la tessera da un anno, quindi non è più parte di Scelta Civica. E come dicevo, non c'è dubbio che la sua uscita ha provocato uno scossone da cui non ci siamo più ripresi nel disegnare una nostra identità, che la sua persona certamente dava a questo partito. La ringrazio, onorevole Ilaria Borletti Buitoni. Allora, buona continuazione. Grazie a lei. Grazie. Ricordo che tra i senatori passati a PD c'è anche la ministra dell'istruzione Giannini. Ma adesso saluto Fabrizio D'Esposito, giornalista del Fatto Quotidiano. Ciao Fabrizio. Ciao Roberta, grazie dell'invito. Grazie a te. Buonasera. Allora, abbiamo sentito le ragioni dell'onorevole Borletti Buitoni dicendo quello era un riformismo, adesso un riformismo diverso dal PD che era allora, probabilmente quando c'era Bersani, no? Dice con Renzi sono cambiate le cose. A me da riformista non proprio sul modello di Scelta Civica fa un po' senso sentire parlare di riformismo magari pensando all'abolizione dell'articolo 18, è ovvio che è una visione diversa da quella di un riformismo di sinistra, quella là dell'onorevole o senatore, ora non ricordo, certamente del sottosegretario Borletti Buitoni, però è la dimostrazione che in questo momento il renzismo è una sorta di mostro pigliatutto onnivoro della politica italiana. È anche naturale. A me le riflessioni che si possono fare sono tante, però a me colpisce un dato perché secondo me va ricordato. Quando un anno fa, più o meno di questi tempi, il governo Letta cominciò a ballare, se ti ricordi, e Matteo Renzi era già segretario del Partito Democratico e mandava il tweet dicendo Enrico stai sereno, è passato alla storia. La ministra Giannini in un'intervista, se non vado errato, al Foglio, il quotidiano allora diretto da Ferrara, che parlò di un'alternativa di governo Renzi, e in Parlamento fu proprio un altro esponente. Sì, ne parlò anche a Effetto Notte, mi ricordo che disse questa cosa. Sì, e poi fu il primo ufficialmente ad aprire la crisi sul governo Letta, fu Andrea Romano, altro esponente di Scelta Civica, che è già passato, tempo confluito nel Partito Democratico, ad aprire la crisi. Allora, volendo usare un linguaggio rozzo, potremmo dire che alcuni esponenti di Scelta Civica sono stati i sicari renziani del governo Letta. È certo che comunque, al di là delle battute e delle valutazioni lì per lì, si può dire che Scelta Civica è stato un fallimento, l'ennesimo fallimento di spezzare il bipolarismo italiano. Non c'è riuscita NCD di Alfano, che comunque è un partito ministeriale nato da una scissione del PDL e che non ha avuto fortuna. Prima Borletti Buitoni ha menzionato le elezioni europee, nemmeno NCD, che è nata con tanti entusiasmi e proclami, non ha per poco raggiunto il 4%. Ecco, in Italia la via centrista non ha, o meglio, la via di un terzo polo di centro non è stata battuta con fortuna né da Monti né da Alfano. È in questo momento in cui noi ci troviamo di fronte a un leader che è stato definito il leader della nuova democrazia cristiana, di un partito interclassista che raggruppa tutti, addirittura di un partito della nazione che potrebbe inglobare, quando il Nazareno ancora non era rotto, Forza Italia. Ecco, di fronte a questa prospettiva loro non hanno più senso. Poi, facendo anche l'ultima valutazione sulla dinamica dell'esistenza dei partiti politici nel secondo dopoguerra, io non ho mai visto un partito che nel giro di un anno, prima lo diceva la Borletti Buitoni, ha perso il 10% dei voti. È un fenomeno, anche oggi che parliamo di crisi del Movimento 5 Stelle, comunque noi parliamo di un partito che dal 25% può scendere al 20%, ma un tracollo così evidente dal 10 allo 0, qualcosa, è stata una cosa incredibile. Senti, per chiudere, Fabrizio D'Esposito, visto che Fitto, che ricordavo appunto, era in questi giorni qui a Effetto Notte, qui che ha detto siamo in 40 il numero dei dissidenti all'interno di Forza Italia, adesso ha lanciato questa convention, siccome tra primarie e azzeramento delle cariche non lo ascolta Berlusconi ai vertici di Forza Italia, dice questa convention il 21 febbraio a Roma per costruire un nuovo centrodestra. Come vedi, come continuerà il suo percorso? Guarda, Forza Italia? a me la discussione politica su Forza Italia non appassiona più di tanto, perché io credo che i protagonisti centrali di questa vicenda non siano né Fitto né Toti. Il problema di Berlusconi è, per dirla in modo sempre lo stesso, è il conflitto di interessi. Gli attori sono altri di questa partita. Certo, Fitto gioca un ruolo di ribellione interna a Forza Italia, vuole ricostruire, però in un partito padronale con il presidente che ha un'agibilità politica ridotta per il momento ed è comunque una concezione non proprio della vita democratica molto contemporanea, io penso che i margini per Fitto siano molto molto ridotti. Grazie Fabrizio D'Esposito, intanto. Grazie a te Roberta. Grazie, buona continuazione. Aggiorniamo, no, adesso non aggiorniamo chi viaggia, aggiorniamo più tardi, adesso ci prendiamo invece una pausa di riflessione e vi ricordo che potete continuare a mandare i messaggi che vedo sempre molto critici sia al 349-238-6666 sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, anche se adesso avete sentito le ragioni di uno dei parlamentari, la deputata Borletti Buitoni, per questo passaggio da Scelta Civica al PD. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, Roberto Giordano sempre con voi. Stavo leggendo i molti messaggi che arrivano sulla scelta di alcuni di Scelta Civica, 8 parlamentari in tutto. Abbiamo sentito poco fa l'onorevole Borletti Buitoni di passare al PD. E praticamente da 55 sono rimasti in tutto 24 adesso in Parlamento. Scrive Silvia da Roma al 349-238-6666: come sono patetici questi parlamentari di Scelta Civica, stanchi di stare relegati in un cantuccio. Hanno capito che è meglio saltare sul carro del vincitore Renzi, ma la dignità di questi signori dove è andata? E più o meno insomma sono tutti di questo tenore. Stasera siete proprio molto molto contrariati, molto duri. Andrea dice: mi permetterei di far notare all'onorevole Buitoni che la politica fatta di sogni o comunque con pochi fondi non è vero che non sia fruttuosa. Si può guardare al Movimento 5 Stelle che ha molti più voti di Scelta Civica senza bisogno di spendere 700.000 euro di campagna elettorale. Il problema sono i contenuti, non i soldi, dice Andrea. Insomma, questione di punti di vista. L'onorevole ha detto quali sono le sue motivazioni e quelle del gruppo che si è staccato da Scelta Civica. Adesso però vi ricordo le altre notizie della giornata e poi andremo su una di queste. La crisi ucraina, vertice tra Putin, Merkel e Hollande sul piano di pace. ISIS, nei bombardamenti attuati dalla Giordania come vendetta per il pilota arso vivo, è morta una cooperante americana ostaggio degli integralisti, ma Washington non conferma. La politica italiana, Renzi avverte Forza Italia, i numeri li abbiamo lo stesso anche senza di voi e avete appena sentito, 8 parlamentari di Scelta Civica passano nel PD. OGM, il Consiglio di Stato boccia il ricorso dell'imprenditore Fidenato, quindi in Italia resta il divieto. Omicidio Pasolini, chiesta l'archiviazione per la nuova indagine. Per la procura non è possibile dare nome ai codici genetici rinvenuti sugli abiti dell'intellettuale ucciso nel 1975. Meteo, maltempo, miglioramento al nord, piogge al sud, disagi per strade e ferrovie. Vi ricordo ancora una volta che a fine puntata sentiremo le previsioni del tempo. Bollette nel 2015 scendono, risparmi sino a 2,7 miliardi e per quanto riguarda l'arte, questa notizia è che di Gauguin, il quadro più caro di sempre, è stato venduto a 300 milioni di dollari da una fondazione svizzera al Qatar. Quindi adesso concentriamoci sulla gravissima crisi ucraina, una guerra nell'est del paese tra esercito ucraino e separatisti filorussi che dura da 10 mesi e che ha provocato finora più di 5.000 morti, tantissimi civili tra questi. Pensate cosa sono 5.000 morti, un po' nel cuore dell'Europa. Si rischia la catastrofe umanitaria. Dopo che l'Unione Europea ha deciso nei mesi scorsi delle sanzioni nei confronti della Russia, ora si accelera sulla via diplomatica. Infatti oggi a Mosca si è tenuto questo vertice con Putin, tra Putin, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande, che chiedono prima di tutto un cessate il fuoco. Bisogna vedere a quali conclusioni sono arrivati. E domani a Monaco si incontreranno i capi delle diplomazie degli Stati Uniti e della Russia, cioè John Kerry e Sergei Lavrov. I ribelli nell'est intanto hanno annunciato l'apertura di un corridoio umanitario. Che speranze ci sono di trovare una via diplomatica? Lo chiediamo al professor Aldo Ferrari. Buonasera professore. Buonasera a voi. Che è docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e ricercatore dell'ISPI. Professore, stando così la situazione, forse veramente non ci si rende conto se non si ripete più volte questo numero, mi pare che siano 5.300-5.500, però sopra i 5.000 i morti finora in questa guerra civile. forse anche di più. La guerra è così, è una guerra vera, non è più una scaramuccia, e bisognerebbe arrestarla il più presto possibile. Credo che questo incontro al vertice di Mosca possa essere positivo, soprattutto perché forse è intenzionato a prevenire una scelta probabilmente dissennata, perlomeno molto pericolosa da parte americana, quella di fornire le armi all'Ucraina. All'Ucraina, cosa che evidentemente innalzerebbe moltissimo il livello dello scontro e porterebbe il confronto tra Occidente e Russia a livelli davvero preoccupanti. Speriamo quindi che la discussione di stasera finalmente abbia portato degli elementi di novità che in tutti i precedenti giri diplomatici sono sostanzialmente mancati. Potrebbe essere anche solo un avvertimento, una minaccia per cercare di smuovere Putin, quello degli Stati Uniti, di rifornire l'Ucraina di armi, professor Ferrari? Potrebbe essere questo, potrebbe essere anche un... Insomma, è inutile negarlo, gli americani in politica estera commettono tantissimi errori, basti pensare all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria. Potrebbe essere anche questo un gravissimo errore oppure uno spunto positivo. L'importante è che questa situazione di conflitto gravissimo e sempre più grave venga bloccata il più presto possibile. È una tragedia che non reca beneficio a nessuno, né alla Russia, né all'Ucraina, né all'Europa e neanche agli Stati Uniti. Forse l'unico attore che guadagna da questa assurda e tragica situazione è la lontana Cina. Perché, professore? Perché l'allontanamento strategico ed economico della Russia dall'Occidente favorisce inevitabilmente l'avvicinamento di Mosca a Pechino. È già successo a livello economico, la Russia comincia a vendere gas soprattutto alla Cina perché pensa di non poterlo più fare in futuro verso l'Europa, e dopo l'avvicinamento economico potrebbe esserci quello strategico, un rischio gravissimo. I rapporti con la Russia da parte dell'Occidente vanno recuperati al più presto, bisogna trovare un compromesso, tutte le parti, non solo la Russia, devono cedere qualcosa perché si possa tornare a un clima costruttivo che in questi mesi è mancato completamente. Professor Ferrari, però ha sentito anche l'allerta della NATO per l'attivismo militare russo che resta elevata, e c'è l'ex segretario dell'Alleanza Atlantica Rasmussen che, intervistato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, ha affermato che nei piani di Putin potrebbe esserci l'attacco a un paese baltico per testare la capacità di reazione dell'Alleanza Atlantica. Le sembra verosimile? No, non mi sembra verosimile, mi sembra... C'è una prova russa a disinformazione piuttosto grave da parte di un esponente di così alto livello. C'è una guerra di propaganda che avviene in entrambe le direzioni. C'è sempre abituati a pensare che gli altri, in questo caso i russi, abbiano torto, ma molte responsabilità della situazione sono anche di parte occidentale. Affermazioni di questo tipo non contribuiscono sicuramente a creare un clima costruttivo. Professore, in un minuto finale, lei riesce a spiegarci qual è stata l'origine di questo conflitto, ritornare un po' a monte? Come si possono dice? Dare diverse spiegazioni. A mio giudizio l'errore principale è stato compiuto nel novembre-febbraio 2013-2014, quando l'Ucraina era spaccata in due, Yanukovych era indifendibile da tutti i punti di vista, ma non si sarebbe dovuto spaccare il paese in quella maniera, si sarebbe dovuto trovare una soluzione condivisa da tutte le parti politiche ucraine e condivisa tra Europa e Russia. Si è preferito perseguire la via della radicalizzazione dello scontro tra le due anime dell'Ucraina, appoggiandone solo una metà, e da allora l'Europa si è posta su una china irreversibile. A questo punto tornare indietro è molto difficile, tutte le parti hanno delle responsabilità. Se venisse ammesso questo punto, che nessuno ha completamente ragione, credo sarebbe più facile arrivare a una soluzione del conflitto. Grazie professor Ferrari. Grazie a lei, buonasera. Grazie, buona serata. Aggiornamenti per chi viaggia, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E le notizie proprio di adesso, dall'agenzia di stampa TASS, che proseguono il Cremlino i negoziati tra Putin, Merkel e Hollande sul piano di pace per l'est dell'Ucraina. Quindi i colloqui continuano ad andare avanti anche durante la cena e oltre. Vedremo insomma che cosa emergerà. Intanto le altre notizie: Renzi rafforza il PD, abbiamo i numeri anche senza Forza Italia, spero vinca il buonsenso. Intanto 8 parlamentari di Scelta Civica migrano nel PD. Ucraina, abbiamo appena parlato del vertice tra Putin, Merkel e Hollande. E poi ISIS, una ragazza statunitense ostaggio degli islamisti, sarebbe stata uccisa in questo raid aereo giordano. Per il Pentagono però non c'è nessuna prova che sia morta. Il nodo della Grecia, che verrà ulteriormente discusso all'Eurogruppo l'11 febbraio. Il maltempo che migliora a nord, piogge a sud, disagi per strade e ferrovie e scontri tra il ministro delle infrastrutture, dei trasporti Lupi e le autostrade per questo stop alla circolazione. Sapete che ci sono state diverse proteste in questi giorni. Le bollette che sono in discesa nel 2015 per quanto riguarda l'energia elettrica in particolare. E poi resta il divieto del mais OGM in Italia. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un imprenditore friulano. Europa 24 notte. Lo spazio europeo, parliamo di Polonia. Quanto la crescita polacca è legata al buon utilizzo dei fondi strutturali europei, quanto Varsavia è riuscita a schivare la crisi grazie all'Europa. Ne parliamo con Piero Cannas, presidente della Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia. L'ho intervistato Sergio Nava. Il sistema Italia in Polonia è fatto da una serie di eccellenze, come quelle sicuramente nel settore infrastrutturale, dove possiamo citare Astaldi, che ha appena concluso la seconda linea della metropolitana e adesso sta lavorando per esempio sull'aeroporto di Cracovia, o Salini è arrivata non tanti anni fa in Polonia, ma si è già aggiudicata importantissimi appalti per la realizzazione di infrastrutture stradali, diventando immediatamente uno dei player più importanti nel panorama polacco. Dal punto di vista industriale noi abbiamo qui, diciamo, tutte le nostre eccellenze, dalla Fiat alla Brembo alla Ferrero. Cos'è che attrae qui le nostre aziende a livello di vantaggi competitivi? Cosa rappresenta la Polonia? Beh, la Polonia rappresenta un mix che in questo momento in Europa è praticamente unico, nel senso che ha ancora intanto un mercato interno di oltre 38 milioni di abitanti. Varsavia è la piazza finanziaria di tutto il Central Eastern Europe, quindi tutti i capitali arrivano qui. Rappresenta una potenzialità industriale importante perché, diciamo, si dice che in Polonia ci sono operai con la qualità tedesca ai costi polacchi. Qual è stato il segreto che ha permesso all'economia polacca di evitare la crisi e di continuare a crescere? È stato secondo me un mix di fattori, insomma, sono arrivati al momento giusto, nel senso che sono arrivati in un momento in cui l'Europa, la Western Europe, l'Europa occidentale cominciava a zoppicare, e loro invece avevano una grandissima disponibilità di fondi, un mercato interno che comunque offriva manodopera qualificata a costi assolutamente, soprattutto nel 2004, non confrontabili con la media europea, ma tutt'oggi i costi sono ancora abbastanza non confrontabili. Il rapporto è tra 1 a 3, 1 a 4, il costo lordo di un operaio polacco, il costo lordo medio di un operaio nell'Unione Europea. Sono stati bravi perché hanno imparato dagli errori fatti da chi non è riuscito a sfruttare bene i fondi, quindi hanno messo su delle procedure molto rigide ma molto chiare, per cui se le rispettavi erano anche molto veloci e sono tuttora molto veloci nelle erogazioni. Ma un esempio banale: tutt'oggi nei lavori pubblici, dal momento dell'emissione della fattura al momento del pagamento, la media dei giorni è 7. In 7 giorni normalmente le amministrazioni pubbliche ti pagano le fatture sui lavori pubblici. Quindi tutto questo ha creato una serie di fattori di estrema attrattività, per cui chi in maniera, come dire, individuale, chi in maniera strutturata, come ad esempio la Germania, ha fatto della Polonia il suo paese di sviluppo della propria economia. Quale ruolo hanno avuto i fondi europei in questo boom economico? Beh, sono stati essenziali. Senza i fondi europei sarebbe stato impensabile quello che è successo in questi ultimi 10 anni. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Successivamente un altro dei vostri messaggi: i parlamentari di Scelta Civica hanno fatto una scelta in direzione di un sistema maggioritario, riduzione degli schieramenti, io sono a favore, l'unico messaggio, questo per il momento a favore. Ma adesso parliamo della giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili. Sono oltre 100 milioni nel mondo le vittime, donne, bambine, ragazze di mutilazioni genitali, circa 3 milioni ogni anno le donne a rischio secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La pratica è diffusa in gran parte in Africa, Medio Oriente, in alcune zone dell'Asia e dell'America Latina e riguarda oggi anche anche l'Europa. Il Parlamento europeo stima che siano circa 500.000 le donne e le ragazze che convivono con le mutilazioni genitali nel nostro continente e sono una grave violazione dei diritti umani di donne e di ragazze, prevedono il taglio, la cucitura, la rimozione di parte o di tutti i genitali femminili esterni con le conseguenze che si possono immaginare. Ne parliamo con Maria Grazia Panunzi, che saluto, buonasera. Buonasera. Presidente di AIDOS, che è l'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo, ho sintetizzato un po' quello di cui si tratta. I numeri sono più o meno questi, Panunzi, quindi più di 100 milioni nel mondo le vittime. Sì, queste le stime secondo, come detto lei, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. Senta, e perché anche in Europa, per via delle migrazioni, succede questo? Motivo. Infatti se fino a pochi anni fa non si parlava di questo fenomeno in Europa, adesso con le migrazioni, quindi dai paesi dove la pratica viene diffusa, ci sono a parte le donne che sono state infibulate da bambine, ma ci sono anche le ragazze a rischio, le bambine a rischio, perché può capitare che durante i viaggi di vacanza, durante l'estate, durante le vacanze nei paesi di origine, quindi le famiglie rientrano, in quei momenti possono essere sottoposte a pratica. Anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, oggi ha lanciato l'appello a porre fine alle mutilazioni genitali femminili, dice: per creare il futuro che vogliamo, dove ogni ragazza possa crescere senza violenze e discriminazioni, ma con dignità, rispetto dei diritti umani, uguaglianza. Ma a parte gli appelli, che cosa si può fare, che cosa si fa, Panunzi? Il lavoro da fare è tantissimo, nel senso che è un lavoro, poi si tratta di una problematica che non è una problematica solamente di tipo, che ne so, per esempio sanitario, ma è una problematica che riguarda anche le norme sociali di una comunità, quindi deve essere affrontata in una maniera, diciamo, olistica, che appunto riguarda vari aspetti della vita delle bambine e delle persone. E quindi questo obbliga, diciamo, ad una definizione di strategie che vadano dalla prevenzione di questa pratica, e nei casi in cui la pratica è stata praticata, quindi ci sono queste le donne vittime di questa pratica, agire in determinate situazioni quando si presentano determinate condizioni, come per esempio durante il parto per le donne infibulate, e questo è, diciamo, il momento in cui magari anche in Europa le donne che hanno subito la pratica entrano in contatto con operatori sanitari perché hanno un problema reale. Le bambine poi sono bambine a rischio perché, come dicevo, possono essere mutilate durante il loro rientro nei paesi di origine, quindi accanto a un lavoro di prevenzione, che è quindi un lavoro anche di sensibilizzazione su questa pratica per far capire meglio di che cosa stiamo parlando, c'è poi anche un lavoro di assistenza delle vittime, di presa in carico delle donne mutilate, oppure un discorso anche di politiche, di articolazione delle politiche, e un lavoro anche di punizione, perché poi in Italia per esempio c'è una legge che vieta le mutilazioni dei genitali femminili, con pene che vanno dalla detenzione della persona che le provoca, che le produce, fino alla perdita della patria potestà per la bambina, per i genitori delle bambine. È una legge che viene applicata, Maria Grazia Panunzi, questa in Italia? È una legge, come tale va applicata, poi bisogna vedere quanti sono i casi che si riscontrano di mutilazioni, cioè ci stiamo parlando di mutilazioni effettuate in Italia, la legge si applica in questi casi e non ci sono casi in cui c'è stata una condanna perché si è riscontrato una bambina mutilata in Italia, cioè è molto difficile da individuare. Certo, insomma, comunque il cambiamento culturale, il lavoro su un cambiamento culturale è ancora enorme, però ringraziamo associazioni come la vostra, come AIDOS, Maria Grazia Panunzi, e tutti gli organismi anche internazionali che si muovono in questo senso. La ringrazio intanto e buon lavoro. Grazie mille. Grazie. E ora corriamo al nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo, che ci dice che cosa ci aspetta nelle prossime ore, Paolo. Buonasera, buonasera Roberta. Beh, guarda, insomma, ancora in questo momento mal tempo in gran parte d'Italia, però seppur lentamente andiamo verso un miglioramento, quindi buone notizie. Domani ad esempio nelle regioni settentrionali avremo meno precipitazioni e dal pomeriggio anche delle belle schiarite, e domenica al nord il tempo rimarrà bello. Invece domani ancora molta instabilità al centro-sud, ma domenica migliora in tutte le regioni centrali, e anche al sud avremo meno piogge, meno acquazzoni, quindi ti ripeto, seppur lentamente stiamo per uscire da questa forte ondata di maltempo. Uscita dal tunnel, grazie Paolo Corazzone, buon tempo a te comunque ciao, sia. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo, a dopo.